Innamorati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Se Benitez ha fatto una richiesta specifica per rafforzare il Napoli e per rendere competitivi il Napoli e chiede Martens, io sono molto molto preoccupato. È un giocatore, concludo, normalissimo, e ve lo dico, 17 giugno 2013, che non fa più di 8 partite nel Napoli. Gulam è rimasto alto, Koulibaly, attenzione, Mertens, zona tiro, doppio dribbling, Mertens, rete, che gol! L'ho detto già, è un piacere per me perché mi piace giocare per questa squadra e è un piacere, ma anche è buono perché i tifosi vogliono che io giochi per Napoli, e anche un piacere per me. Mertens, si porta il pallone a casa, tripletta per Mertens, Cagliari 0, Napoli 5. Che cosa ha pensato quando ha preso quel palo, che era tra l'altro un momento chiave della partita? Mannaggia, no, non lo so. Già, mannaggia rende. Ancora meglio. Ti rendi conto quello che hai fatto oggi o no? No, devo prima andare a casa e pensare un po'. Pensare anche all'ultimo gol che hai fatto. Qui qualcuno si è scomodato, ha detto alla Maradona. Pallonetto, ci hai pensato e solo istinto? Sono molto contento e a me di continuare e di dare tutto. Di tutto quello che ha dovuto carissimo Luigi Pardo, ciao! Ciao, come va? Bene, bene, hai sentito mitico Eziolino Capuano. Quanto tempo che non ci sentiamo, eh? È da ieri, tra l'altro facciamo subito l'aggiornamento, dai, perché ieri ne abbiamo parlato per 2 ore durante la diretta, è finita 8-6, e se il Genoa non si suicidava con Palermo, bambino, sarebbero bambino. Stati 9. Record di tutti qua. Convocati. Sì, apriamo con quello. Un amico dice: ma aprite col Napoli. No, apriamo con il quasi 9 alla schedina. No, sei stato bravissimo. Sei stato bravissimo, ti faccio i complimenti. Io ho fatto un 6 abbastanza banale, ma sì, insomma, ho sbagliato Chievo. Che ho sbagliato il Chievo. Tu hai sbagliato Rene, hai sbagliato Empoli Cagliari, hai sbagliato Milan Atalanta, hai sbagliato Chievo Sampdoria, hai sbagliato Genoa Palermo. Ah, fenomeno. Mezza Serie A. Cretino, guarda, ho fatto 6, ascolta, ho fatto 8, è chiaro che sono un po' più. No, ma hai ragione, 6 in media, 6 in media. Alta, dai, sì, no, sì. La media è intorno al 7 su 10, mica male. Sì, sì, no, meglio, meglio tu di Eziolino Capuano, no? L'abbiamo sentito. Sì, oh, registratevelo, 17 giugno 2013, Mertens gioca al massimo 8 partite col Napoli. Oggi apro i giornali. Mertens è stato accostato a Cristiano Ronaldo, Gazzetta dello Sport, addirittura pagina 2 e pagina 3. A Higuain, vabbè, l'ha detto De Laurentiis. Oh, guardate che Mertens ha fatto lo stesso numero di gol del Pipita. E poi, e mi ha molto stupito, io intanto saluto Maurizio De Giovanni, che sì, ha la sensibilità. Ha la sensibilità per aiutarci a interpretare io sta roba. Sto riguadagnando la voce un po' alla volta, sì. Quindi se mi chiamate mercoledì penso di potervi fornire una voce all'altezza della trasmissione. Ma questa mattina, quando sul Mattino hai letto l'accostamento a Diego Maradona, cioè, come ci resta un tifoso del Napoli? No, dunque, noi abbiamo vivido il ricordo, eravamo già adulti all'epoca, e quindi abbiamo vivido il ricordo, non scomoderei paragoni del genere. Io quello che credo è che banalmente questo sia un giocatore che ha finalmente trovato una propria collocazione in questo nuovo ruolo che gli è stato forzatamente ritagliato da Sarri, però gol straordinari, gol bellissimi, è vero, ha fatto 10 gol, è anche vero che ne ha fatti 7 in 2 partite, quindi massima felicità, grandissima stima per un giocatore straordinario, innamorato della città, però i santi li lascerei dove sono. Pierre? No, grande, grande lucidità, la lucidità dello scrittore, direi, perché è veramente tutto giusto, tutto condivisibile. Mertens è un grande giocatore. Io sono un fan di Mertens da tempo, da sempre, nel senso che sono uno, poi se qua parliamo ogni giorno, però insomma sono uno per esempio che lo scorso anno imputava a Sarri il fatto che giocasse nettamente meno di Insigne. A me è sempre piaciuto tanto, tanto. Adesso dico una cosa che può sembrare cattiva, mi è sempre piaciuto un po' più di Insigne, anche se Insigne è un talento e magari fra due mesi glielo auguro di cuore, anche perché Lorenzo è un amico, lo celebreremo come il nuovo aspirante Maradona, perché Insigne vuole giocare, ce l'ha, e dopo una partenza difficile quest'anno sta facendo benissimo. Sì, poi ha la suggestione che è il figlio Napoli, insomma, quello c'è anche un legame particolare. Che tra virgolette non capivo, ripeto, l'anno scorso il fatto che c'era proprio troppa sproporzione, secondo me, tra il minutaggio di uno e il minutaggio dell'altro. Però sono due grandi giocatori, sono la grandissima forza però, del Napoli. Però Piero, scusami, non capivamo, sono come quelli di Higuain, no, per tanto carità, per non fare 0-0 per non carità, sono come quelli di Higuain, sono gol che pesano di meno. Higuain, questi, è anche vero che Mertens è un attaccante esterno, Higuain è una punta centrale, pesano è... anche di più, cioè nel senso pesano di meno in termini di punti, di meno come l'abbiamo detto anche come ieri, importanza, ecco. No? Ecco. Pesano di più, nel senso che è chiaro che 10 gol fatti da un attaccante esterno hanno un valore diverso rispetto alla punta centrale, su questo non c'è dubbio, ma Higuain sta facendo un'ottima stagione, Mertens sta facendo una stagione pazzesca, anche perché poi Mertens aveva cominciato fortissimo, poi si era un po' fermato dal punto di vista realizzativo, poi in queste ultime due partite è riesploso, però anche per esempio in Champions League aveva fatto già cose molto importanti, quindi è una certezza del gioco del Napoli. E poi c'è un fatto, se vuoi, di amore per la città, che era quello che diceva De Giovanni, che adesso poi mai mette la mano sul fuoco, insomma non vorrei che succedessero altre cose tipo gol ingrati, sì. Però ecco, Mertens sembra veramente uno calato nella, è uno che vive in città, se non sbaglio, sì, vive... però perdonami, non alimentiamo false illusioni, false speranze. Guarda, è già arrivato un messaggio, io lo leggo, a Maurizio De Giovanni, tifoso juventino, adesso Andrea da Pinerolo: sono juventino, ma Mertens per caso ha la clausola rescissoria? Maurizio, molto simpatico, sì. Molto carino, che ringrazio per l'augurio. Dunque, no, il discorso è questo: Mertens è sicuramente un grande legame con la città, giustissima la notazione, vive in città, vive agli inizi della salita di Posillipo, esatto, ecco. una persona profondamente innamorata della città, che la città ama molto. Mertens è un giocatore diverso da Insigne, e quindi ha ragione per quando dice dei minutaggi forse mal distribuiti. Insigne garantisce una copertura differente, superiore, è più regista offensivo. Insigne ha un record di assist assolutamente rispettabile. Mertens è uno che vede però meglio la porta, quindi anche da attaccante esterno Mertens segna e tira soprattutto più di Insigne. Non è un caso che Sarri, dovendolo utilizzare l'attaccante centrale, abbia lamentato più volte l'averlo perso come arma in corso d'opera, perché Mertens che entra a difesa avversaria stanca e a situazione e a bocce più o meno ferme, a situazione consolidata, riesce a sparigliare molto la situazione. Quindi tra i danni che ha avuto il Napoli dal perdere Milik c'è anche quello di non aver potuto utilizzare Mertens a partita in corso. Ma non vi state affezionando troppo, cioè al di là della battuta dell'amico juventino, resta sotto questa paura. In questa cosa che gli hai chiesto, sì, c'è proprio tutta la differenza fra due tipologie di persone che sono tutte e due rispettabili. No, tu hai detto una cosa giusta, hai detto una cosa di prudenza. Non vi state, è come quando ti innamori, no? Ma non mi starò innamorando troppo. E questa è la solita domanda. Io penso che mediamente a Napoli si viva per il presente, cioè per la gioia e per la felicità di essere innamorati oggi di Mertens. Poi se fra un anno, due anni o tre anni Mertens andrà dall'altra parte, è un sonoro chi se ne frega. Però sono due punti di vista rispettabili, non ti sto dicendo che uno sia. Noi infatti non abbiamo alcuna memoria del centravanti dell'anno scorso, di cui non ricordo il nome. Quello che ha fatto 10 gol anche lui, no? Dieci gol anche lui, certo, sarebbe il minimo, no? A 36 ne mancano ancora 26. No, quello che io volevo dire è che trovo un po' sterili questi conteggi dei gol fatti, dei conteggi dei gol fatti rispetto all'anno precedente, al mese precedente. Io ricordo che il Milan ha 10 gol in meno realizzati del Napoli e 2 gol in più subiti, e ciononostante ha un punto dal Napoli. Quindi voglio dire, sono statistiche che lasciano un po' il tempo che trovano, io credo, e che soprattutto vadano viste nella prospettiva dei punti realizzati. Quello che è importante, è importantissimo, è che il Napoli ieri abbia vinto la partita pur subendo 3 gol. Ecco, questi 3 gol subiti al Napoli, io come Sarri mi soffermerei, perché sì, è abbastanza grave. Tu come Sarri ti arrabbieresti un po', ti rabbuieresti un po'. Io come Sarri mi sono abbiamo il traffico, sì, certo. Detto peraltro, perché va anche detto questo, il Napoli ieri non ha mai avuto meno di 2 gol di scarto. Mai. Ma difatti la partita di ieri non è mai stata assolutamente in discussione. Quindi. Grazie Maurizio De Giovanni, abbiamo il traffico. Ciao, grazie Maurizio. Un abbraccio a Pietro. Allora 800 24 00 24, adesso parliamo anche della Juve, tranquilli, ha fatto il record di punti, 100 nell'anno solare, ha quasi chiuso il campionato, citazione del commissario tecnico Ventura di questa mattina. Leggo un tweet di Pierpaolo Marino, magari ci sta sentendo, 2 minuti fa, un anno fa chiesi a Maradona chi toglieresti al Napoli per portarlo nella nostra squadra del primo scudetto. Maradona rispose: Mertens. Tutti convocati. Hanno detto che stava in crisi, che non faceva gol, che questo, che l'altro. Ho stato sempre tranquillo perché io so che l'importante anche è aiutare la squadra, ovviamente. Il gol è quello che al calciatore lo rende felice, ma sempre è stato in un momento tranquillo e sapeva che prima o poi arrivava. Oh, c'è chi ci ricorda, carissimo Pier, a proposito, ho dato i numeri 800 24 00 24 per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666, sms, whatsapp. C'è chi ci ricorda che Mertens è riserva nella nazionale belga. Sì, vabbè. Però possiamo dire che sta facendo delle grandi robe. Lui e Sarri, che è l'unico, diciamo la verità, perché l'abbiamo comunque messo in discussione per 2 mesi, è l'unico che l'ha visto come possibile centravanti. Sì, l'ha visto come possibile centravanti, anche perché sono costretto a vederlo come possibile centravanti, perché se non si fosse fatto male Milik avrebbe continuato a giocare da punta esterna. Io credo che ci sia una congiunzione astrale molto favorevole, cioè Mertens da 20 giorni è in una condizione pazzesca, è tornato sui livelli sicuramente dell'inizio della stagione, non ci dimentichiamo che ha fatto 2 gol al Benfica, 2 gol a Pescara la prima giornata, 1 gol con l'Empoli, un gol col Besiktas prima di questo rush infernale strepitoso cominciato a Lisbona e continuato poi, quindi insomma diciamo che c'è un insieme di elementi, l'elemento psicologico. Il Napoli in questo momento è una squadra finalmente liberata dal punto di vista psicologico dopo la qualificazione in Champions. La qualificazione in Champions certamente ha cambiato le cose, su questo non ci sono assolutamente dubbi, no? Sì, ha stappato la bottiglia, non ci sono grandi discussioni su questo, la squadra è molto più libera, come sempre bisogna capire il rapporto causa-conseguenza, cioè bisogna capire se il Napoli ha fatto quella partita lì a Lisbona perché già aveva risolto il suo piccolo momento di appannamento di forma, oppure se è vero il contrario, cioè che adesso è più libera perché ha superato quell'ostacolo lì. Cambia poco, cambia zero, è una grande realtà del campionato. Il campionato secondo me in questo turno ha rimesso le cose a posto rispetto a quelle che erano le previsioni che avevamo fatto all'inizio dell'anno, e cioè Napoli e Roma vicina alla Juve subito di rincorsa, e poi la Lazio che è la grande realtà, secondo me non sorprendente perché lo dico da quest'estate, è una grande squadra. Sì, Inzaghi tra l'altro sta facendo secondo me anche un mezzo miracolo, perché è vero che la Lazio ha un'ottima rosa, però è anche vero che Inzaghi è arrivato, ragazzi, a metà dell'estate in condizioni un po' particolari. Inzaghi è bravissimo e aveva mostrato già l'anno scorso in quello spezzone di stagione di sapercela fare, e mi ricordo benissimo lo scoramento, i famosi 11 abbonati. Chiaramente Bielsa era una grande suggestione anche mediatica, ma Inzaghi, l'avevamo detto quest'estate, alla fine era un allenatore che sembrava avere delle caratteristiche interessanti. Certo, poi ti dico la verità, dirti che mi sarei aspettato la Lazio in questa classifica, forse in questa classifica proprio no, però non mi sorprende perché è una squadra forte, anzi a tratti fortissima, ha forse pochi ricambi e ha forse ancora un piccolo complesso nelle grandissime partite. Perché non a caso. Sì, come ha dimostrato anche il derby. Non a caso ha perso con la Juve, con la Roma e col Milan. Ma magari anche quella di mercoledì con l'Inter è una grande partita. Aspetta, che intanto saluto Gigi De Cagno che ci ha raggiunto. Mister, buongiorno. Buongiorno a voi. A chi lo diamo l'Oscar tra gli allenatori di queste prime 17 giornate? Inzaghi, Sarri, Allegri? Inzaghi. Sì, anch'io. Io lo do a Sarri perché secondo me è stato capace a interpretare l'emergenza, però Inzaghi sta facendo davvero i miracoli. Allora, io lo spiego, Inzaghi proprio per tutto quello che avete detto, no? Inzaghi e Gasperini, come ha detto, sì, Inzaghi e Gasperini, come ha detto Pier, Inzaghi è stato scelto successivamente perché ha rinunciato Bielsa, era in via a Salerno, si è catapultato, la prima vera grande esperienza in un momento di grande difficoltà, ha risolto i problemi della società, i problemi della squadra, li ha risolti con qualità e facendosi apprezzare dai suoi giocatori e offrendo un bel calcio e risultati, per cui mi sembra... Il mister ci ricorderà, perché eravamo quest'estate a Napoli, un programma che però si occupava sia di Napoli che di Roma e Lazio, un canale che possiamo anche citare, che è Canale 21, proprio nei giorni caldi, no? Quelli della freddezza al ritiro della Lazio, della delusione per il mancato arrivo di Bielsa, però insomma la squadra è buona, e poi Immobile è stata una grande intuizione. La verità secondo me è che la Lazio, intesa come società da un punto di vista di programmazione, se facciamo un rapporto fra il budget che ha a disposizione e come lo spende, sta facendo delle cose straordinarie. Poi c'è un nodo irrisolto fra presidente e una parte importante della tifoseria, e questa è una storia tutta romantica e di rapporti, ma dal punto di vista dei risultati sportivi questa società le cose quando deve fare l'ordinaria amministrazione la fa benissimo. Poi è chiaro, e si è visto per esempio nell'anno del terzo posto del preliminare in Champions, che magari se deve fare il salto di qualità dal punto di vista economico, questo salto di qualità non lo fa. Sì, questo c'è poco da discutere. Manca qualcosa. Però non sono in molti che lo fanno adesso, questo salto di qualità dal punto di vista economico. Cioè, non è che sono tutte queste società in Italia. No, ma anche perché Pier si fa fatica a immaginare di poter fare il salto per vincere, visto che poi sopra c'è quell'altra. Oh, tra gli allenatori Andrea Daudine ha scritto, ricordandoci anche Montella, che sta portando il Milan dov'è, non con una squadra di fenomeni. Io invece volevo chiedere a Gigi De Cagno, insomma, se dobbiamo rassegnarci, come ha detto anche Ventura, un campionato semichiuso, e che è un peccato, perché Juve a parte, Roma, Napoli, Lazio, Milan, tutte in due punti, cioè dietro ci sarebbe anche da divertirsi a livello di equilibrio. Sì, dietro ci può essere la possibilità, senza grandi pressioni, di poter dare spazio a tanti giovani, magari anche di buona qualità, che il campionato italiano probabilmente riserva. Se questo coraggio l'ha avuto Gasperini in un momento in cui era anche contestato, non dimentichiamolo, io credo che in questa situazione, in un campionato fatto in questo modo, con tre squadre che si sono un po' staccate sotto e le altre con tanti punti a disposizione, penso che senza grandi pressioni, ecco, si può offrire uno spettacolo migliore, di migliore qualità, e forse dare anche, provare anche un po' ove ce ne fossero, insomma, di giovani. Quanto riguarda il vertice, è sempre il solito campionato. Direi che a mio avviso, per come pensavamo anche quest'estate con Pierre, il Napoli noi pensavamo potesse essere un po' più a ridosso della Juve. Infatti, se pensiamo a prima di questo miniciclo vincente, i pareggi con Sassuolo e Lazio, risultati sembravano già acquisiti, insomma sono punti importanti che una squadra ormai così forte, quando è tranquilla, quando è serena come in questo momento, non dovrebbe perdere. È con un'abitudine ormai al vertice della classifica, perché è da tanto tempo che il Napoli bazzica nei primi posti del campionato italiano. Altri messaggi: Gasperini mai stato contestato a Bergamo, semmai messo in dubbio, però insomma all'inizio lo ricordiamo tutti, non è stato semplicissimo. Abbiamo ancora un minuto prima della borsa, volevo chiedere a tutti e due, tu Pier ieri l'hai vista dal vivo, ma anche a Gigi De Cagno, se l'Inter ha spazio per reinserirsi lì in alto, insomma insieme a Roma, Napoli, alla Lazio, al Milan. Pier, l'Inter ha la possibilità, secondo me sta disegnando un percorso di crescita abbastanza evidente, però per me l'Inter è dietro a Juve, Napoli, Roma e Lazio. Cioè, secondo me queste quattro squadre sono superiori perché le prime tre hanno una cifra tecnica superiore e la Lazio comunque ha una intelaiatura di squadra comunque più organizzata, secondo me un po' più ordinata, un po' più organizzata. Poi l'Inter sta crescendo, ieri abbiamo visto per esempio molto bene i due esterni bassi di difesa, e questo è un segnale, perché se Ansaldi e D'Ambrosio cominciano a giocare con regolarità bene, diciamo che uno dei principali problemi dell'Inter di questa prima parte della stagione vuol dire che è stato risolto. Però insomma, secondo me l'Inter va in Europa League, guarda, molto adesso ti dico questa cosa che poi verrà usata, sì, tranquillamente contro di me, ma insomma mi sembra che il tipo di fra il quarto e il sesto posto sia la dimensione più probabile del campionato nerazzurro. Mister? Sì, io penso allo stesso modo, perché l'Inter non è ancora una squadra nel vero senso della parola, potrà diventarlo, si sta formando, ha bisogno di continuità, ha bisogno di continuità tecnica, ha bisogno di continuità di risultati, ha bisogno di ritrovarsi anche sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto della mentalità. Troppi complimenti per le campagne acquiste di troppi grandi presunti grandi calciatori, però obiettivamente tutto questo non ha mai fatto squadra. E nel campionato italiano, come insegna anche la prima in classifica, che magari, come dicono tutti, giocherà non un grande calcio, però quando c'è da soffrire, quando c'è da dimostrare di essere squadra, credo che non sia seconda a nessuno, insomma, proprio in Europa. Sì, e poi i risultati si vedono. Oh, abbiamo la borsa, grazie a Gigi Teccagno. Grazie a voi, ciao Pier, buona giornata a tutti. Ciao mister, grazie. La borsa, torniamo subito. 800 24 00 24. Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Convocati. Shake up the happiness, wake up the happiness, shake up the happiness, it's Christmas time. Rischia ancora De Rossi un intervento che però Higuain salta, Higuain ancora in area di rigore, sinistro, e il pipita Higuain, golasso di Higuain. Juve in fuga sto giro. In fuga, intanto abbiamo fatto un'altra vittoria, siamo a 42 punti, mancano ancora due partite alla fine del girone d'andata. Vincere oggi era importante, uscire con una vittoria o con un risultato positivo, con una vittoria maggiormente più importante che il pari. Mettiamo la Roma a 7 punti, però il campionato è ancora buono. Mertens, lo spiovente, mamma mia, mamma mia, si è regalato anche il cucchiaio magico, il folletto Mertens. It's Christmas time. João Mario, il dribbling al limite, João Mario incrocia, consigli, la palla resta lì per Candreva, che firma il gol del vantaggio. Antonio Candreva su una palla persa da Sassuolo segna l'Inter. Immobile si libera di un avversario che è Vecino, 3 contro 3 contro via della Lazio. Immobile va in percussione, scarica a sinistra, arriva Chiesa in aria, parte il tiro, rete, 3-1 della Lazio, il gol di Radu. Siamo stati bravi perché abbiamo riportato un po' di entusiasmo, la gente è contenta di noi, li sentiamo vicini. Adesso noi dobbiamo cercare di migliorarci, perché secondo me abbiamo ancora margini di miglioramento, perché abbiamo una squadra giovane che può crescere e dare tanto. Assunto sonoro del weekend, della domenica. Aggiungo tre notizie. Del lunedì la Juve ha annunciato oggi il rinnovo di Bonucci fino al 2021. Poi c'è la vicenda del Pisa, è stata staccata la luce allo stadio Arena Garibaldi, colpa del mancato versamento di circa 4.000 euro di bollette. Oggi entro le 22 è attesa la risposta della famiglia Petroni sull'ultima inderogabile offerta per acquistare il club e salvarlo dal fallimento. Se qualcuno può fare qualcosa per il Pisa, lo faccia, perché siamo davvero arrivati alla farsa. La terza notizia ce la dà Alex da Reggio Emilia. Oggi 20.000 persone per Reggiana Parma in Lega Pro. queste ve le ho raccontate. 800 24 00 24, Piero da Torino. Pronto? Eccoci. Salve, grazie per darmi spazio, vi ascolto sempre con molto piacere. Se posso permettermi una piccola nota polemica, dopo il lunedì dopo Juve-Roma, ecco, aprire con i 4 gol di Mertens, sì, e l'Inter che vince a Sassuolo, magari capisco che, se finisco subito, sì, forse giornalisticamente parlando direi che il campionato è finito, perché praticamente è finito, non è il massimo, però magari, ecco, adesso sicuramente ne parlerete, ne sono convinto. Ma guarda, ne sei convinto, giusto, ma dopodiché, insomma, è anche roba di 48 ore fa, ma adesso ne parliamo, tranquillo Piero, dai, prego. No, niente, il mio intervento era finito. Sono era tutto per dire che dovevamo parlare della Juve. Se direte che il campionato è al 90% finito, purtroppo è così. Purtroppo è così, Pier, no? Sì, purtroppo sicuramente, nel senso che ci piacerebbe avere un campionato un pochino più certo, però è anche bello per i tifosi della Juve, nel senso che poi la Juve merita di stare lì davanti, quindi c'è poco da... magari questo le potrà regalare qualche energia in più per la Champions League. Poi comunque, insomma, aspettiamo, nel senso che tanto noi abbiamo molto altro da fare. Io credo che Roma e Napoli abbiano comunque il dovere di provare a costruire un percorso di un certo tipo. In questo, il fatto che ci sia una sfida invece accesissima per il secondo posto, che in questo momento vede coinvolte quattro squadre, ovviamente Roma, Napoli, Lazio e Milan, secondo me può dare ancora più energia a queste quattro e può renderlo interessante. Poi è chiaro che la Juve, a questo lo diciamo da sempre, insomma, e in qualche modo sono d'accordo con quello che diceva Caputi ieri, cioè la vera notizia era che ci fosse un campionato, perché la Juve quest'anno ha comprato il miglior attaccante della seconda e il miglior centrocampista, o comunque uno dei migliori della terza, e quindi di che stiamo a parlare? Cioè è ovvio che fosse la favorita. Vediamo che succederà, però insomma è chiaro che il 90% la Juve vince, vi do due numeri. La Juve sta viaggiando alla media di 94 punti. Ci ho letto stamattina. 94 punti. Oggi la proiezione della quota scudetto Juve a parte è 15 punti sotto. Quindi, insomma, è evidente che stiamo parlando di qualcosa che assomiglia sinistramente a una sentenza, sinistramente per chi spera di portare avanti il campionato il più possibile. Resta aperto il tema, non mi ricordo chi lo toccava anche prima, insomma, sulla qualità del gioco, forse Gigi De Canio si dice, della qualità del gioco di Allegri, di questa Juventus, però insomma poi i numeri e la redditività di quel gioco sono davanti a tutti. Ma infatti, poi sai che insomma è un mio cavallo di battaglia il fatto che noi spesso scambiamo la bellezza estetica di una squadra per l'efficacia. Sono proprio due categorie diverse, sono due sport paralleli. Essere belli non sempre vuol dire essere vincenti, e viceversa. La Juve non è certamente una squadra straspettacolare. I picchi di rendimento del Napoli di ieri nel primo tempo, o della Roma in qualche partita, in qualche momento, in qualche sprazzo, sono anche superiori esteticamente a quelli della Juve. Però la Juve vince le partite difficili, la Juve, se tu guardi il Napoli, io non sono, fosse il tipo del Napoli, non sarei così soddisfatto del punteggio che c'è in classifica arrivati a dicembre, sarei molto soddisfatto della qualificazione in Champions League sicuramente, ma secondo me questa squadra poteva fare qualcosa in più al netto dell'infortunio, perché ha avuto una fase di appannamento dalla quale non ha saputo reagire subito. La Juve, quando prende uno schiaffo tipo Genova, poi reagisce e supera nello stesso mese Atalanta, Torino e Roma con una questione di mentalità, Pier. Cioè, ma tra l'altro una delle altre cose di questo weekend sono le parole degli altri, cioè abbiamo sentito Montella sabato dire la Juve è imbattibile, e oggi lo ripete anche in un paio di interviste sui giornali, Spalletti che ha detto la Juve è più forte, la Roma ne esce malissimo, quando questi giocano a un certo livello sono degli animali in senso positivo, e noi lì non riusciamo ad arrivarci. Sarri, insomma, in queste settimane lo ha detto un po' in tutti i modi, che cosa pensa della superiorità della Juve. Fammi salutare Pietro Anastasi. Anastasi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buongiorno, ben ritrovati ragazzi. Anastasi che, lo dico per i distratti, oggi ha contestato il record di Mertens, 7 gol in 2 partite, ricordando che nel 1974 lui fu capace di farne 8 nel giro di una settimana. È uno dei 7 giocatori, scusa, adesso poi lascio la linea a Pietruzzo, ma insomma è uno dei 7 giocatori nella storia del calcio che prima di Mertens ha fatto 7 o più gol in 2 giornate, ed è l'unico che ne ha fatti più di 7, ne ha fatti 8. Anastasi, Ma adesso mi ricordo di aver fatto due gol e 8 gol in 3 partite, mi sembra che ricordare. Sì. Sicuramente 6 in 2 partite, sicuro. No, 8, hai fatti 8 in 2 partite, non buttarti giù. 3 gol alla Fiorentina, 3 gol al Vicenza e 2 alla Roma, se non ricordo. No, hai fatti 8 in 2 partite. 8 in 3 partite, non 8 in 2. Partite. Adesso diamo merito a Mertens di quello che ha fatto, l'impresa che ha fatta. Comunque se mi fa piacere di avere questo record qui, sicuramente dopo tanti anni, però insomma, mi fa piacere. Resta troppo forte la Juve per le altre, è già finita, Pietro? Ma non è che resta troppo forte per le altre, è la mentalità che ha la Juventus in confronto alle altre. Cioè, quando si gioca per la Juve, quando si va alla Juve, si insegnano subito che lì si gioca solamente per... Poi può arrivare anche quarto o quinto, non ha importanza, però si lotta sempre per vincere. Anche nei campionati che la Juventus non ha vinto lo scudetto, è arrivata sesta, settima o quarta, però si lotta sempre. E questo qui, quando arrivi, te lo insegnano subito i veterani, insomma, su quelli che arrivano nuove, insomma, tipo Buffon, Bonucci, Chiellini, a questi nuovi ragazzi che arrivano, inculcano che lì si gioca solamente per vincere. Tu hai mai sentito un allenatore della Juve, anche nelle annate un po' così, dire della prima in classifica imbattibile? Non riusciamo a giocarci. Ripeto, io ho fatto piccolo collage, Montella, Spalletti, Sarri, insomma l'abbiamo sentito più volte in questo inizio di stagione. Hai mai sentito un allenatore della Juve dire quelle cose lì? No, beh, adesso le altre squadre che dicono che la Juve è imbattibile, insomma nel calcio nessuno è imbattibile. Abbiamo visto adesso che Real Madrid ha vinto 4-2 e supplementare con quella per il mondiale del club, insomma, che ha fatto fatica. Nel calcio niente è scontato. Abbiamo visto adesso il Palermo, che è l'ultima in classifica, andare a vincere a Genova, ecco, 4-3 dopo che perdeva 3-1 quando il Genova ha battuto la Juventus. Può capitare che possa succedere questo, però insomma nessuno è imbattibile, basta trovarla nella giornata sbagliata per poter vincere. Però sicuramente la Juventus è quella che in questo momento è quella che prima di tutto stare in testa non è facile, lo stress ti martella, perché stare in testa non bisogna essere abituati. Cosa che le altre squadre magari quando sono in testa perdono un po', diciamo, di tramontana per l'altezza della classifica, però la Juventus a queste cose abituate, e il vantaggio della Juventus è la mentalità. Sta nel DNA quello che ho detto prima, che si gioca sempre per vincere e inculcare a quelli che arrivano che la Juve si gioca sempre per vincere. Prima di salutarti ti giro un messaggio che è arrivato: il gol di Higuain è merito suo e non del gioco di Allegri, mentre il gioco del Napoli è merito di Sarri. Ma perché tanti tifosi anche della Juve continuano, insomma, a non amare particolarmente Allegri? Ti sei dato una spiegazione? Perché i tifosi della Juventus sono abituati bene, perché prima di tutto quando è arrivato Allegri nessuno lo voleva, e questo è stato scontato che non voleva nessuno. Questo qui invece, insomma, ragazzi, ha vinto lo scudetto, ci ha portato in una finale, è lì per portarci al sesto scudetto consecutivo, abbiamo una partita di Supercoppa con il Milan, insomma va bene che insomma, non è amato, per qualcuno è amato, però è un allenatore da apprezzare, perché insomma ha fatto dei risultati brillanti e bisogna dargli merito. Poi uno può essere simpatico o non simpatico, però purtroppo per questi tifosi qua sono i risultati che contano. E no, dopo tanti anni non si dice ma la Juve ha vinto il campionato giocando male, si dice la Juve ha vinto lo scudetto, stop, punto. Sì, resta soltanto l'Albo d'Oro. Oh, abbiamo il traffico. Sì. Io ringrazio intanto Pietro Anastasi. Grazie. Niente. Pietro. Ciao. Ragazzi, alla prossima. Ciao. Era Meazza quello che ne ha fatti 8 in 2 partite, chiedo scusa. Era Meazza. Lui ne ha fatti 8 in 3 in una settimana, che comunque non è male. C'è anche chi scrive che è poco significativo il record di Anastasi, perché fare il centravanti della Juve in quel periodo era un gran bel mestiere, ma lo dicono anche dei centravanti del Napoli oggi. Abbiamo il traffico, poi c'è Davide da Pistoia, dalla provincia di Pistoia. Torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Dai, vi aspetto, 800 24 00 24 Davide, dalla provincia di Pistoia. Davide, ciao. Buonasera. Eccoci. Buonasera. Io chiamo dalla provincia di Pistoia, ma sono livornese. Sì. E sono doppiamente interessato alla situazione societaria del Pisa Calcio. E vorrei da voi un parere su questa cosa. Le riflessioni che ho fatto in questo periodo sono questi. Io avevo già chiamato alla fine dell'estate per parlare con voi di questa situazione. C'era proprio lei, non c'era il sì. dottore o il signor Genta. Adesso lei mi dette una risposta che era mi sembrò piuttosto, diciamo, buonista, nel senso che mi rispose che il presidente di Lega, quindi Abodi, era quello il lavoro che doveva fare. Sì. E quindi lui, cioè, di cercare di pilotare una situazione, esatto, fuori da una crisi. Sì. Però vi segnalo che stamattina, ma magari lo sapete, hanno staccato la luce, sì, all'Arena Garibaldi. Detto quindi, prima. Sì. Sì, io non ascoltavo che ero al lavoro, scusate. Come tifoso di Livorno mi sento un pochino diciamo defraudato, no, della Serie B, perché è vero, il Livorno è retrocesso l'anno scorso, ma sarebbe stato ripescato al posto del Pisa se il Pisa appunto non fosse stato iscritto. Guarda Davide, tu hai perfettamente ragione, io capisco il ragionamento, però secondo me stiamo parlando di due cose diverse, nel senso che l'iscrizione o meno a un campionato va su parametri della Federcalcio. Cioè, io non voglio fare il leguleio, però quello è, io ho apprezzato e in un certo senso continuo ad apprezzare il tentativo di chi poi quel campionato lo gestisce, in questo caso il presidente della Lega B, di intervenire e di provare a facilitare la soluzione di una crisi, una trattativa, portare al tavolo di chi vende o non vuole vendere, adesso questo non si capisce, l'interlocutore giusto, questo secondo me è un tentativo apprezzabile, e poi certamente se quel tentativo sarà fallito sarà un fallimento tutto, ma sarà un fallimento per Pier, anche per il calcio italiano. Assolutamente, sì, no, sono d'accordo con te. È chiaro che c'è sempre, no, un the other side of the moon, c'è sempre un rovescio della medaglia, e poi in questo caso c'è i due interessi di Pisa e Livorno, che sono due città molto vicine ma molto rivali, in qualche modo possono andare a confliggere. Quindi capisco perfettamente il punto di vista dell'ascoltatore, però credo che da parte di Abodi ci fosse il tentativo genuino di rispettare il verdetto del campo, no? Cioè il fatto che Pisa abbia il diritto sportivo e poter partecipare a questo campionato. Quello che sta succedendo a Pisa è incredibile, è veramente incredibile, è una situazione surreale. Sì. E mi dispiace che comunque, insomma, un grande del calcio italiano come giocatore, glielo auguro anche come allenatore, si debba trovare in delle situazioni veramente creano così tanto imbarazzo, perché imbarazzo è la parola giusta, insomma. Sì, stai parlando ovviamente di Gattuso. Saluto Paolo De Paola, direttore di Tutto Sport. Ciao, ciao a tutti. Ciao direttore, ciao. Che oggi fa un viaggio in cosa c'è dietro l'impero della Juve, perché insomma ci stiamo interrogando, ma la risposta più o meno se la sono dati tutti su quanto sia ancora vivo questo campionato. Oggi, notizia di queste ore, la Juve sta chiudendo per Caldara dal 2018, Marotta ha detto che lui, Gagliardini e poi ce ne sono altri, sono i giovani più interessanti. C'è come il sospetto, il dubbio, la sensazione, poi ognuno la interpreta con la sfumatura che vuole, che la Juve stia già anche prenotando e progettando il futuro. Beh sì, insomma, se riesce poi in questo filotto dei 6 scudetti consecutivi che entrano proprio nella leggenda del campionato italiano, è come dire, quest'anno è iniziata una nuova storia che però in effetti allunga quella precedente dei 5 scudetti, ma si proietta nel futuro con un'era che comincia con Higuain, Pjanic e Dybala e proseguirà con altri grandi campioni. Non dimentichiamoci, la Juventus ha fatto debuttare questo Kin, il primo diciamo 2000 che ha debuttato in Serie A, ha le mani appunto su Gagliardini, Caldara, ma tanti altri giovani che segue con interesse non solo nei campionati europei ma anche in Sud America. Quindi c'è un'attenzione a una prospettiva più ampia che si basa anche su un fatturato di 360 milioni che la proietta verso i grandi club europei e la distanza sempre più dal resto del campionato italiano. Tutto questo, Pier, che riflessione ti suggerisce? Ma allora, c'è una tendenza che è tipica del calcio di oggi, che è appunto quella di allargare le differenze fra chi vince e chi perde. cioè mentre 20 anni fa o 30 anni fa non c'erano dei meccanismi, insomma, non c'era questo acceleratore, le vittorie non fruttavano poi così tanto, quindi ogni anno si ripartiva più o meno dalla stessa situazione. Comunque oggi con i meccanismi, la Champions, i diritti televisivi, i premi, gli sponsor, è anche giusto che sia così, perché dai, il mercato che va in questa direzione, chi è più forte tende ad essere sempre più forte, chi è più debole, chi è senza Champions inevitabilmente si deve ricollocare su livelli economici più bassi, e quindi questa situazione di vantaggio sarà sempre più probabile che delle squadre riescano ad aprire dei cicli. E anche l'Inter aveva aperto un ciclo, poi ovviamente il punto di partenza del ciclo era dovuto anche al fatto che in quel momento scarseggiavano alcune avversarie perché avevano altri problemi, però poi l'Inter era stata brava nel riuscire a continuare quel tipo di situazione, che si è interrotta nel 2010 forse anche perché c'erano tanti giocatori un po' anziani e lì probabilmente Moratti ha avuto un piccolo peccato di gratitudine che è molto bello dal punto di vista umano, e ha continuato a fare magari dei contratti in quel momento lì che potevano invece essere ripensati. La Juve in questo momento ha quella stessa situazione di vantaggio e sì, è probabile che continui a vincere per un po', questo non ci sono assolutamente dubbi. Poi sì, la Juve ha un vantaggio strutturale legato allo stadio di proprietà, è quasi una certezza, siamo intorno ai 10 anni di vantaggio strutturale, se vogliamo. Poi il calcio, per carità, sul campo può succedere, però può succedere una cosa, scusami, sì. Il vantaggio però se l'è anche trovato, ricordiamoci che la Juventus esce dallo scandalo di calcio per il 2006. In questi anni ha costruito, si è ricostruita praticamente una strategia di successi, di vittorie, e anche ha proseguito sulla strada dello stadio di proprietà. Ma le altre che hanno fatto, noi abbiamo pubblicato uno studio oggi che se avessero messo in questi 10 anni 15 milioni da parte ogni anno, quindi la spesa per un grande campione, ma ci rivolgiamo a Roma, a Napoli, a Milan e Inter, avrebbero tranquillamente raggiunto quella cifra di 150 milioni per costruirsi uno stadio. Ma perché non l'hanno fatto? Cioè, perché non c'è stata una spinta in questo senso? Questa è la grande domanda. Questa è la domanda. Poi ci sono mille intrecci, mille spiegazioni. Le vicende della Roma oggi, insomma, fanno capire che ci sono anche difficoltà alle volte a fare dei progetti, o meglio, a riuscire a portarli in fondo. Però c'è anche sicuramente una certa miopia a livello di programmazione. Tornando al campo, io ti giro, direttore, un messaggio. Tifoso juventino, non amiamo Allegri perché non sa leggere le partite e ci ha fatto perdere 2 Champions. Mamma mia, ma guarda, ne dicevamo tanti, Pier, allora, non è che li stiamo selezionando. Posso dirti una cosa? Sì. Io riscontro soprattutto nell'area social una antipatia nei confronti di Allegri che è esagerata in confronto a quello che invece ha dimostrato sul campo. È un carattere completamente diverso da quello di Conte, è una persona che comunque riesce a gestire i campioni, e gestire campione è forse più difficile di avere una squadra, diciamo, con un livello medio più basso, perché chiaramente devi riuscire in qualche modo a confrontarti con il campione, perché comunque non è facile a riuscire a entrare nella sua testa, e non è facile. Quindi Allegri ha dimostrato sul campo e con i successi che è bravissimo. Io non capisco che cosa si possa pretendere di più. Devo dire che il suo piccolo capolavoro l'ha compiuto proprio contro la Roma, perché la Juventus ancora non è al massimo, e la chiave tattica della partita si è chiamata e si chiama Alex Sandro. È lui che ha distrutto non solo Gerson ma Salah e il difensore della Roma, adesso mi sfugge, Rudiger. Che hanno una velocità spaziale, e Alex Sandro è stato superiore a tutti e tre. Quindi dico, come si fa a giudicare male Allegri, che appunto da un punto di vista tattico qualche sciocchezza ogni tanto la fa, ma ribadisco, una squadra che è prima, è riuscita a passare da prima alla Champions, si è presa una bella rivincita sul Siviglia, ha compiuto un'impresa a Lione, in campionato quest'anno ha fatto 100 punti su 114. Insomma, è mostruoso quello che sta facendo la Juve. È anche strano perché poi comunque Allegri non è neanche un personaggio simpatico, voglio dire. Quindi c'è anche questo elemento umano che da questo punto di vista è veramente un ancelottiano, che insomma mediamente dovrebbe stare simpatico, però anche Ancelotti non è neanche uno, come si dice, sborone, cioè uno. Beh, io non vi voglio smontare, ma in diretta è arrivato un SMS: con Conte la Juve avrebbe vinto di più. No, secondo me no secondo me con Conte, numeri alla mano, la Juve ha vinto di meno. Detto questo, Conte è stato decisivo nella costruzione della nuova Juve. Conte ha un merito indiscutibile che nessuno gli potrà mai togliere. Senza Conte non ci sarebbe stato Allegri, senza la Juve di Conte non ci sarebbe stata la Juve di Allegri. Quindi Conte, se si nella gerarchia dei meriti, occupa sempre un posto speciale. Però quello che ha fatto, per esempio, il primo anno in Champions League, la Juve di Allegri, la Juve di Conte non l'ha mai fatto. Non l'aveva fatto. Poi Conte adesso sta facendo un altro capolavoro, però voglio dire, cioè, non è qua chi vuoi più bene a mamma o papà, chi è più bravo. Non te lo so dire chi è più bravo, però c'è partita, ecco, non è che stiamo parlando... Però vogliamo dirle anche una verità storica. Dai, direttore, che poi c'è il GR. Luigi, no, quando Allegri ha vinto il primo scudetto, lo ha vinto con dei giocatori sui quali Conte aveva emesso una sentenza. Rivoluzioniamo la squadra, ci vogliono almeno 7 cambiamenti. E quella squadra, quella rinforzata di poco, ha vinto lo stesso lo scudetto per dimostrare, non solo diciamo per bravura di Allegri, ma anche per dimostrare a Conte... E c'era stato vi ricordate, non si va in un ristorante con 10 euro, insomma c'erano state tante frasi che evidentemente a quella squadra non erano garbate. Aveva battezzato come chiuso un ciclo. Vi devo lasciare salutare perché c'è il GR, grazie a Paolo De Paola, direttore di Tutto Sport. Ciao direttore, grazie anche a te Pier, a domani. Dopo il GR delle 14, Carlo da Treviso, Andrea da Bologna, vi richiamiamo dopo il GR perché abbiamo ancora mezz'ora per stare insieme. Tutti convocati. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo è centro, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Tutti convocati. Salirò fra le rose di questo giardino, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. João Mario, il dribbling al limite, João Mario incrocia, consigli, la palla resta lì per Candreva che firma il gol del vantaggio. Antonio Candreva sulla palla persa da Sassuolo segna l'Inter. Vittoria importantissima che dà continuità alle altre. Ora vogliamo finire prima della sosta natalizia con un altro risultato positivo e niente, ci prepariamo già da domani a mercoledì. Beh, adesso dobbiamo correre forte, lo sappiamo, quindi per noi sono sempre partite tra virgolette della svolta. Era troppo tempo che non vincevamo fuori casa, abbiamo vinto giocando una partita secondo me con molta intelligenza, con molta lucidità, soffrendo nei momenti che era giusto soffrire. Peccato per non avere poi chiuso la partita un po' prima perché si poteva raddoppiare. Comunque notizie meteo: a Milanello oggi nevica, ad Appiano Gentile splende il sole perché l'Inter, come scrive Repubblica, comincia a sembrare una squadra. Saluto subito Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio. Ciao Giovanni, buon pomeriggio a tutti. Comincia a sembrare una squadra, il che mi fa pensare che Pioli fosse il normalizzatore che serviva magari anche un po' prima, ma andremo avanti fino a fine anno. Sì, lui non voleva essere definito il normalizzatore, preferiva il potenziatore, però il dato di fatto è che ha messo molta tranquillità in questo momento in cui è necessario, perché evidentemente l'Inter ha iniziato la stagione in una maniera un po' turbolenta e adesso effettivamente sembra una squadra. Cioè, basta fare le cose semplici, cioè senza inventarsi cose da chissà, dove va a giocare, in che campo, contro che avversario. Esattamente, così come è bello vedere che ci sono dei giocatori che sembravano ormai dei ferri vecchi, che adesso non dico siano indispensabili, però il Melo, chi per lui, messo lì a centrocampo a mettere un po' di ordine, insomma, è stata una soluzione che l'Inter aveva in casa e ha messo in naftalina per troppo tempo. Fabrizio Biasin, convocato anche perché ci deve in 30 secondi riassumere la partita di Gabigol di ieri. Beh, guarda, 30 secondi, se me ne dai 2 minuti te la racconto secondo per secondo, perché sono i 2 minuti di Gabigol che effettivamente sono troppo pochi per darci la possibilità di giudicare questo ragazzo che ieri è entrato con tutta la voglia del mondo, ha combinato un po' di pasticci. Io sono dell'idea che si debba sospendere qualunque giudizio fino a quando questo ragazzo non avrà almeno la possibilità di giocare una mezz'ora, cosa ne pensi? Sì, magari non all'Inter, da qualche altra parte, perché è evidente che questa storia è iniziata col piede sbagliato, col piede sinistro, e io penso che in questa stagione sia difficile anche la scelta di metterlo ieri al 91esimo con la squadra comunque avanti 1-0, poi 30 secondi dopo c'è stata l'espulsione di Felipe Melo, insomma. Non lo so, altre volte Pioli era stato più logico in quella situazione, magari risenti di un po' di pressione comunque di dare l'idea che non ci sia una marginalizzazione di Gabigol, c'è un investimento da 30 milioni. Un investimento importante, è chiaro che non si può pensare di mettere questo ragazzo due minuti e pensare di aver risolto il mistero c'è e lotta insieme a noi, vediamo a gennaio cosa succederà con questo ragazzo. Io non so se andrà in prestito, perché c'è tutta una serie di giocatori che certamente l'Inter proverà a piazzare, sono almeno 5 o 6. Tra questi dovrebbe esserci anche Gabigol, ma io credo che non sia uno dei primissimi. L'Inter forse, prima di pensare di dare in prestito Gabigol, deve sistemarne, ripeto, almeno altri 5 o 6, ed è un po' il diktat che ha ausilio per questo mercato di gennaio, cioè sistemare tanti ragazzi e poi pensare di prendere quel centrocampista difensivo in prestito, perché ricordiamo il fair play finanziario impedisce all'Inter di comprare cash. Anche quello è vivo e lotta insieme a noi, anche, esatto. Anche se domani Suning presenterà la sponsorizzazione alla Pinettina, arriveranno soldi, per carità, però il fair play è sempre lì, non è sparito. Sì, diciamo che il mercato estivo della prossima stagione sarà probabilmente un mercato molto ricco. Questo invece è ancora un mercato viziato dalle sanzioni, da quel contratto firmato negli anni passati dall'Inter con l'UEFA, per cui sicuramente l'Inter non comprerà come vorrebbe e potrebbe, ma si limiterà a questo prestito con diritto di riscatto per trovare un centrocampista che possa ulteriormente normalizzare la situazione. Perché le squadre si fanno così, gli esterni che servono, una riserva difensore centrale, un centrocampista. Esatto, io lo dico, poi adesso ci sono Andrea da Bologna e Giovanni della provincia di Caserta, cioè, quando le squadre le fanno i direttori sportivi, poi magari sbagliano, però più o meno ragionano con questa filiera, no? Un centravanti, un portiere, altrimenti può succedere di tutto. Una volta funzionava che si prendevano gli 11 titolari e le 11 alternative, e tutto era più o meno logico, invece sì. L'estate scorsa con l'indigestione di denaro che ha avuto l'Inter c'è stata la corsa al prendi tutto quello che passa il convento, e questa cosa ha portato a qualche problema di troppo, per esempio, vento, ad avere 29 sì. giocatori, per esempio ad avere un giocatore come Jovetic che è un di più che l'Inter non si può permettere di avere, nel senso che è chiaro che avere un giocatore come Jovic che non gioca mai poi ti porta i problemi che abbiamo visto nelle ultime 48 ore. Certo, ciao Fabrizio, grazie. Grazie a voi, ciao ragazzi. Fabrizio Biasin, 800 24 00 24, il convento. Andrea da Bologna, Andrea. Buongiorno. Eccoci, dai. Salve. Tutti qui a dipingere la Juve dei fenomeni, ma onestamente sì. Di che stiamo a parlare? No. Allora, senza il saccheggio estivo non ci saremmo a questa situazione. E poi Pardo ha detto prima... In che senso, perdonami Andrea? Cioè, nel senso che la Juve l'anno scorso, tolte le prime 10 giornate, ha vinto praticamente tutte le partite, Cioè, non è che fosse più scarsa di quella di quest'anno. Certamente, ma il Napoli quest'anno, con Higuain al Napoli e non Higuain alla Juve, se la sarebbe giocata diversamente. Non dico che avrebbe vinto, ma se la sarebbe giocata diversamente. Ma il problema è più ampio di questo. Il problema è che l'anno prima di vincere il campionato il Leicester aveva lo stesso budget del Napoli che era arrivato secondo, perché in Inghilterra c'è una redistribuzione del reddito e dei diritti televisivi differente, e non mi risulta che la Premiership sia un covo di comunisti. Però perdonami, no? Andrea, è vero, però si parte anche dal dato di fatto che la Premier incassa tre volte quello che incassa la Serie A, cioè sì, se il Leicester ha un grande budget è soprattutto perché la Premier incassa tre volte quello che incassa la Serie A, ma è tutto proporzionale, poi lo dividono anche meglio, ma è tutto proporzionale. In questo momento in Premiership ci sono 5 squadre che possono legittimamente dire posso ancora vincere il campionato, in Italia neanche una oltre la Juve. E questo è il campionato che vi piace, che vi diverte. Ma è il problema anche della Francia, adesso al di là che quest'anno il Paris Saint-Germain sta facendo, insomma, non la migliore delle sue stagioni, è il problema della Germania, dove si gioca per capire quando lo vincerà il Bayern, tra marzo, aprile, maggio, non si è mai visto, non recentemente. E del resto io credo che qualcosa potrà cambiare dal 2018, con la certezza per quattro italiane di entrare direttamente nei gironi della Champions. E con questo rispondo a un messaggio di chi mi chiedeva prima come funzionerà così: se resteremo nelle prime quattro del ranking UEFA, e certamente vuol dire che in tanti potranno avere la sicurezza di poter fare degli investimenti per tentare di avvicinare la Juve, e poi si tratterà di non sbagliarli. Giovanni dalla provincia di Caserta. Salve, buongiorno. Eccoci. Vi seguo da tanto tempo e quindi sono anche un po' emozionato. Comunque, no, la mia domanda era riferita all'imminente acquisto di Pavoletti dal Napoli. Sì. Cosa ne pensate? La mia impressione è che secondo me non serve, anche se è un giocatore fortemente voluto da Mister Sarri. Io penso, Giovanni, che sarebbe servito ottobre-novembre. Certamente, evidentemente, Sarri aveva battezzato Gabbiadini come non funzionale al suo modulo, e visto quello che sta facendo a livello di rendimento d'attacco del Napoli, che ha segnato fin qui 6 gol più dell'anno scorso, dopo la 17esima giornata e senza Higuain e senza Milik per 2 mesi, credo che evidentemente avesse ragione lui. Però insomma, Pavoletti è un ottimo attaccante, e siccome noi dobbiamo anche tenere in considerazione che Milik rientrerà a febbraio, ma certamente non rientrerà al pieno della condizione e disponibile al 100%, io credo che un attaccante serve, magari non Cristiano Ronaldo. Final del partito, il Real Madrid cierra il 2016 come campione del mondo dei clubes in un straordinario anno internazionale, perché fu campione d'Europa, ganò la Supercopa d'Europa e si aggiudica in questo triplete di Zinedine Zidane il campionato del mondo dei clubes. Filippo Maria Ricci, ciao. Buon pomeriggio. Oh, per raccontare questo 2016 straordinario da record per Cristiano Ronaldo, ma io credo soprattutto per Zidane. Sì, te lo dico, posso già anticipare, domani lo celebriamo. Hai visto? Su Extra Time della Gazzetta. E per me giustamente, ecco, speravo che si partisse proprio da lì, perché va bene, Ronaldo, abbiamo parlato tanto, va bene, sul pallone d'oro, però il vero protagonista di questa stagione, di questo anno, perché poi parliamo proprio di un anno solare. 4 gennaio, esatto, sì. 18 dicembre. Come scriveva lui, il 19 dicembre dell'anno scorso pareggia col Real Madrid Castiglia a Talavera della Reina, terza serie, seconda si chiama in Spagna, no? Quindi era lì, fa il suo Natale in famiglia, poi no, Rafa pareggia a Valencia, lo cacciano via e via arriva Zidane. Attenzione, qua bisogna ricordare una cosa che secondo me è importantissima. Zidane era già a Real Madrid nel luglio precedente, quando Florentino Perez doveva scegliere il successore di Carlo Ancelotti, e non lo scelse. E non gli piaceva Rafa Benitez. Rafa Benitez è stata, diciamo, non lo voleva, però non c'era nessun altro e presero lui. E Florentino non vedeva Zinedine Zidane, e non lo vedeva nemmeno a gennaio, però a gennaio a quel punto era in un vicolo cieco, l'unica carta da giocare era quella, no? Del carisma, del grande giocatore, dell'aura zidanesca, no? Anche per spegnere, credo soprattutto per spegnere i rumori della contestazione. Sì. Dobbiamo tornare indietro, esatto, di un anno, non solo fischi, insomma, la richiesta di dimissioni a Florentino. A Florentino sì. Dimissione, chiaro, no? Quindi lui le spegne sperando, calandosi quest'ultimo jolly, però non ci credeva tanto, lo butta giù un po' così, un po' di traverso. E Zidane ha dimostrato, io sono molto contento, io sono sempre molto critico, perché non è ancora un grande allenatore, ma lui l'ha detto anche l'altro giorno, cioè io sto imparando, e non è una falsa umiltà, Zidane è molto, molto sincero, lui è un anno che allena a grande livello, quindi le partite non le legge ancora bene, secondo me anche l'altro giorno ha sbagliato i campi. L'altro giorno, ieri, nella finale. Sì, nella finale con i giapponesi. Lucas Vázquez non andava tolto, probabilmente. Però quindi è ancora in una fase di apprendimento. Però ha mostrato delle capacità dialettiche che nessuno gli riconosceva, no? Proprio questo ci metto la mano sul fuoco, no? Nessuno poteva pensare che se la cavasse così bene in conferenza stampa a questi livelli, poi, perché qui non è mica semplice. E poi in campo comunque 53 partite, 2 sconfitte, piano piano è riuscito a imporsi. Come ha fatto? Prima facendo solo lo spogliatoio, come aveva fatto Carletto. Zidane ha osservato tanto Ancelotti, si vede in conferenza stampa e si vede nella gestione del gruppo. Lui si è avvicinato ai giocatori perché sa che comunque, voglio dire, partendo dal presupposto che a Real Madrid resti solo se vinci, non si vince col presidente, si vince con i giocatori. E lui si è avvicinato ai giocatori. E da lì in poi è riuscito il cambio, stavo appunto facendo il testo di domani e sono andato a vedere il cambio. Io sapevo, mi ricordavo che lui ci ha messo 2 mesi a far giocare Casemiro, no? Sì. Che era un pallino di Benitez, perché certo, alla fine Zidane ha fatto tutto quello che faceva Benitez, e che è l'equilibratore del Real Madrid, esatto, è l'uomo che devi nascondere a Perez. Esatto, no? Esatto, però ci ha messo 2 mesi ed è quando è che diventa titolare? Dopo la sconfitta nel derby con l'Atletico Madrid, che è una delle due sconfitte, l'unica in Liga, no? 35 partite di Liga, ne ha persa una. Quella, da lì in poi, ha detto, sai che c'è, caro Florentino, adesso Casemiro gioca. E Casemiro era uscito quando, nel fatidico classico di Benitez, era titolare fisso, gli impongono di toglierlo di mezzo, perdono 4-0 e lì Benitez perde la faccia, certo, perde la faccia con lo spogliatoio e però perde anche poi tutto quello che c'aveva con la stampa e la presidenza. Con i tifosi, con il presidente, con tutti, sì, da lì inizia, insomma, alla fine. Oh, c'è, esatto, c'è Mario che scrive: Zidane è l'allenatore più fortunato della storia del calcio, senza Ramos e Ronaldo sarebbe alla stregua della Spalma. Parliamo, no, insomma. No. La fortuna c'entra, perché però... La fortuna ci vuole, cioè, se Griezmann non tira sulla traversa al rigore nella finale, certo, della Champions San Pilano, magari l'epilogo diverso, magari, però il calcio è fatto così. Anche ieri Endo al 94 ha la palla del 3-2, ancora nei tempi regolamentari, l'ultimo pallone dei tempi regolamentari ce l'ha Endo e lo spara via da 6 metri. Ci vuole fortuna da qua. Ha vinto le tre finali che ha vinto, sempre supplementari, e anche col Siviglia poteva perdere tranquillamente, salvato da Sergio Ramos, no? Che minuto era lì, non mi ricordo, ormai mi confondo, 92, 93, però in zona Ramos. Va bene. Sì, però dico, fortuna, però non solo, voglio dire, non è così semplice, perché quando tu arrivi con poca fiducia, un ambiente che conosci, sì, però lo conosci anche per gli aspetti negativi, quindi puoi, no, anche avere dei timori e via dicendo, uno spogliatoio complicato, insomma, competizione in Liga, lui ha fatto più punti in quest'anno tanto di Barcellona come dell'Atletico Madrid, e ha perso la Liga di un punto, se no poteva anche prendersi la Liga, cioè... Sì, ma difatti la grandezza è che poi in realtà in questa stagione si sta dimostrando anche il migliore nella Liga, quindi è bravo nella corsa breve, che è quella, diciamo, rappresentata dalla Champions, dalle manifestazioni europee, dalle finali secche, però insomma ha imparato in fretta anche come si comanda un campionato come quello spagnolo, difficile soprattutto, è complicato, soprattutto ad altissimi livelli. Ma sì, ma anche cioè, voglio dire, ha fatto 4 pareggi di fila, cioè la Liga non è così semplice, no? La Liga, il livello medio è altissimo, il Barcellona quest'anno ha lasciato in casa, ma ha lasciato 9 punti, sembra, no? Pareggiando con l'Alavés e via dicendo. Lui sta facendo per la prima volta, il Real Madrid ha un chiaro vantaggio in Liga. È un meraviglioso apprendista Zidane. Sì, io veramente sono contento per lui, insomma, fa sempre piacere se qualcuno, e bisogna dare alcuni onori a Rafa Benitez, che è stato messo in trappola dal presidente, è stato un po' ingenuo Rafa Benitez, perché il presidente gli ha chiesto certe cose e poi l'ha lasciato un po'. Ma come del resto Filippo, tanti a Madrid, solo che Benitez ha avuto meno probabilmente le spalle larghe rispetto ad altri. Ti saluto Filippo, grazie. Ciao, grazie a te, ciao. Domani sulla Gazzetta dello Sport, lode a Zidane. Le tre dichiarazioni della settimana. Cominciamo con Simeone Junior in imbarazzo, dopo che gli chiedono che cosa farà il padre. Ancora. Sai se papà sta cercando casa a Milano per caso? No. No, va bene, ciao Giovanni, in bocca al lupo. Poi un Mihajlovic particolarmente soddisfatto della partita di Ljajic. È un disastro, oggi come con la Juve non mi è piaciuto per niente, e lui è quello che ci deve dare quel salto di qualità e tutto, ma purtroppo... E queste ultime partite è meglio non averlo che averlo, e speriamo che si svegli presto. Poi Higuain pizzicato sul coro un giorno all'improvviso. Ciao Gonzalo, se ti dico un giorno all'improvviso mi innamorai di te, tu che pensi? l'ha toccata più. No, alto. Questa è stata una canzone bella, bellissima per me. E l'ho detto e lo dico un'altra volta, io ho un rispetto per loro perché mi hanno trattato di una maniera spettacolare. Se mi vogliono credere mi va benissimo perché mi farebbe felice, se non mi vogliono credere è una cosa di loro. Io lo dirò oggi fino alla fine che sarò ringraziato a loro perché grazie a loro anche ho cresciuto. Gonzalo Higuaín, intanto sto vedendo sui teleschermi, qui in redazione, sciare Alberto La Bomba. E dietro per 6 centesimi, ha vinto ancora Alberto, ha vinto ancora, lo vedete esultare, due medaglie d'oro, entra nella leggenda, Alberto Tomba entra nella leggenda dello sci di tutti i tempi, signori sono fissi dello sci, ha vinto due medaglie alle Olimpiadi, ce l'aveva fatta Stenmark Alex Fletti, chi lì è stato era addirittura 3. Calgary 1988, ancora i brividi. Mario Cotelli, ciao. Pondi. Ancora i brividi, Cos'era 30 anni fa? Era 1988, sì, anche Tomba, che oggi fa 50 anni. Esatto, aveva 22. Questa qui era la cronaca dell'arrivo della seconda man dello slalom speciale. Sì, sì, fa impressione che Tomba faccia 50 anni. Beh, in certo momento... Tony ne ha fatti 65, quindi passano per tutti. Sì, però insomma uno come lui, soprattutto per la generazione che si è avvicinata allo sci grazie alle sue imprese, insomma, Calgary fu capace di sospendere il Festival di Sanremo per mandare in diretta la sua discesa. Lui resta immortale, resta con quell'immagine lì, quella del giovane un po' guascone, anche se insomma lui oggi dice non ero pigro, attenzione, non ero come mi disegnavano. Ma Tomba è sempre stato un timido e faceva le guasconate ogni tanto per reagire a questa sua timidezza e far vedere che era invece una persona diversa. È sempre stato un ragazzo estremamente sensibile, tutti gli altri invece, tutto il pubblico invece crede che fosse certamente un menefreghista, tutt'altro. E soprattutto aveva una grande dote, quella di non patire le grandi manifestazioni. Lui partire magari in Coppa del Mondo o soprattutto in un'Olimpiade o in un campionato del mondo con la stessa tranquillità con cui sarebbe partito per i campionati bolognesi, ecco. Questa è stata la sua grande forza. Era anche un atleta che lavorava tantissimo, anche se aveva un talento immenso. No, lui era dotato naturalmente e quindi aveva una reattività neuromuscolare pazzesca, perché a piedi appaiati saltava sul tavolo, quindi non è che molti atleti possono fare certe cose. In più aveva una grande determinazione, ha vinto troppo poco rispetto a quello che è stato, cioè lui ha vinto solo le gare di un giorno, è come il ciclista che vince solo a Milano-Sanremo ma non vince il Giro d'Italia e il Tour de France, ha vinto solamente una volta nel 1995. Colpa di che cosa? Ma fatto erano più forti gli avversari? No. Cioè, una cosa molto semplice che io ho sempre scritto, ho sempre detto, ma la gente poi la valutazione non riesce a farla, perché ci sono uno slalom gigante, non è mai uguale a un altro slalom gigante, come una tappa del Giro d'Italia in pianura non è uguale a una tappa del Giro d'Italia con lo stelvio. Allora, cosa avevano fatto quei tempi negli anni 90? Per bloccare Tomba, e avevano adottato lo stesso sistema per bloccare Tony Gross 15 anni prima, per bloccare Tomba avevano velocizzato i giganti, avevano velocizzato soprattutto il Super G. Quando è partito il Super G era un gigante lungo, quindi una roba da 50-55 all'ora, quindi anche Tomba avrebbe potuto farla, e infatti lui ha fatto dei buoni Super G, quarto, quinto. Ha fatto Super G anche alle Olimpiadi di Calgary nel 1988, si dimenticano tutti. Poi hanno fatto diventare il Super G una discesa e lui a 90 all'ora non ha mai retto la velocità, perché non era preparato alla velocità, e quindi l'hanno praticamente, scusatemi il termine, fregato. Gli hanno tagliato le chance Super G di fare punti. E ha perso anche i giganti, quelli veloci. Certo. Perché questo è il motivo per cui Tomba non ha vinto le coppe del mondo. Ecco. Poi insomma anche le combinate, era un tesoro di punti che andava spesso agli altri. però Tomba è lì, è nel cuore di tutti. Ieri Hirscher ha eguagliato uno dei suoi primati, 4 volte di fila primo sulla Gran Risa nel Gigante, e sono passati quasi 30 anni. Grazie Mario Cotelli. Niente, grazie a voi. Ciao Mario, grazie. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci risentiamo domani dopo il GR L'Europa delle 14. Ciao.